si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Il cane sottomette, non solo per denaro, il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero. Lo psico pipistrello evita la luce, il mulo porta il padre e non si riproduce, il coccodrillo è in cerca. Nessuna tolleranza contro questa gente. Tu non li mangi i bambini, no, ok? Tu non li mangi i bambini. Chiaro, tu mangi gli animali, però. Attenta. E allora venerdì sera la zanzara è finita così, con i vegani, gli animalisti davanti a Radio 24 che insultavano Cruciani che aveva il salame in mano. Buonasera a tutti, ciao a tutti da Alessio Maurizi, questa sera ci sono io a tenervi compagnia con Si può fare, che dal weekend trasloca nel lunedì sera in questa serata di Pasquetta. O un venerdì di fibrillazione, amici che avete a cuore la sorte degli animali, giustamente. Dovete essere un po' più tolleranti nei confronti di chi ritiene possibile oggi in Italia mangiare la carne. È la maggioranza degli italiani probabilmente che la pensa così, anzi sicuramente che la pensa così, soprattutto se gli animali sono trattati bene, con umanità, si potrebbe dire, se non facesse ridere un gioco di parole, mentre sono in vita. Perché l'aggressione dell'altra sera è stata piuttosto pesante. Sentiamo qualche altro frammento di quel momento di concitazione. A un certo punto è intervenuto anche il vice direttore di Radio 24, Sebastiano Barisoni. No, non posso farti una domanda. Se tu ammazzi un altro essere, ma è legale. Te... Io vado a ricordare. Ma cosa anche fascismo era legale? Anche scoprirsi allora, ma c'è l'unico modo in democrazia: anche... fai un referendum, becchi il 51% dei voti. Se no, il fascismo è una minoranza che vuole dominare. Ma non è che sei legale. Ma se la maggioranza del tuo paese vuole mangiare maiale, ma potrà farlo. Ma allora la maggioranza non vuole la vivisezione. La maggioranza si chiama democrazia. La maggioranza non vuole la caccia, perché si può dire? Ma cosa? Ma i referendum si sono fatti per la caccia? Ma è stata di base. Io mi schiero a pelle di leopardo sulle parole del vice direttore di Radio 24, non fosse altro perché è il mio vice direttore, ma condivido quello che lui ha detto e non sto qua a ripeterlo. Però, cari ascoltatori, 800 24 00 24, naturalmente, come sempre, comunque la pensiate, chiamate, e tutti i punti di vista sono ben accolti, anche i più estremi da questo punto di vista, purché restino nell'ambito della dichiarazione, delle dichiarazioni verbali, non passare ai fatti. Ancora qualche voce di questo fine settimana. I jainisti sono più seri, cioè i jainisti sono estremi, non vanno in automobile a più di 30 all'ora per non uccidere le zanzare sul parabrezza. La scelta jainista è quella estrema vera. Ma tu sei tutta vegetariana? Tutta, completamente, dalla testa ai piedi. Cioè praticamente solamente verdure? Sì. No, i vegetariani mangiano anche formaggi, eccetera. Allora tu sei una vegetariana paracula, però. Ufo su Firenze, ufo su Firenze, come il marziano a Roma. Ufo su Firenze, sulle mani dalla città. Ufo sulla gente, ufo della mente. Viriamo a 180 gradi su un altro argomento, cari ascoltatori. Diamo la buonasera e il benvenuto a Izzedine Elzir, imam di Firenze. Buonasera. Buonasera, buonasera. Anche presidente nazionale dell'UCOI e la principale organizzazione delle comunità islamiche in Italia. Io anche l'altra volta, i Zedini, quando ci siamo sentiti nelle puntate del weekend per parlare della vostra iniziativa, il giuramento sulla Costituzione italiana da parte dell'imam, e poi il fatto, la vostra proposta con il sindaco di Firenze di fare i sermoni in italiano nelle moschee d'Italia, avevo detto un UFO su Firenze, perché forse, intanto, come stanno andando queste iniziative, Zedin? Molto bene, perché realmente iniziative che nascano realmente dalla comunità, dalle moschee, dove hanno una esigenza, e noi cerchiamo di portarli a livello nazionale. Ecco, io avevo detto un UFO su Firenze, forse perché in qualche modo lei, Zedin, un rappresentante noto anche in Europa, lei ha anche un ruolo nella comunità islamica europea, credo, come una persona dialogante, veramente un esponente dell'Islam moderato. Allora, io so che lei ha detto: non chiedeteci ogni volta di prendere le distanze dai terroristi, perché noi non abbiamo nulla a che vedere coi terroristi. Io lo capisco, lei è una brava persona, naturalmente è lontano anni luce da quello che può essere un terrorista, però lei capisca anche noi, la vostra voce, la sua per esempio, una voce istituzionale della comunità islamica in Italia, ci serve a capire cosa si può aggirare, nascondere anche nelle comunità islamiche nel nostro paese, se ci può essere una forma per esempio di fanatismo dell'Islam, un'area grigia, avevamo detto anche l'altra volta, che possa indirettamente dare appoggio ai terroristi. Per esempio, si è sentito dire, Zedin, in questi giorni, è stato sbagliato a Bruxelles lasciare tutte le moschee della città in mano all'Arabia Saudita, e quindi diciamo a quell'ala più radicale dell'Islam. Lei è d'accordo su questa analisi? Innanzitutto, noi siamo per che siamo europei o italiani di fede islamica. Abbiamo rapporti di rispetto con tutti i paesi di origine, dal Marocco all'Egitto, all'Arabia Saudita, Algeria, Palestina, Bangladesh, Pakistan, ma abbiamo la nostra situazione particolare, quello che siamo europei di fede islamica. Sì. Innanzitutto io conosco un po' la realtà del Belgio, ma non credo che tutte le moschee, ma un paese, di un paese. Dicono che sono state finanziate ogni anno con 1 milione di euro le 20 moschee, quindi ognuna la sua quota, poi c'è un accordo che risale agli anni 70 tra l'Arabia Saudita e le istituzioni belghe per affidare un palazzo in centro, in città, dove si facesse una serie di iniziative. Ma vorrei sottolineare che questi ragazzi, la maggior parte di loro, non sono cresciuti dentro le moschee. Questo è vero. Sono cresciuti dentro la nostra scuola europea, dentro la nostra società europea. Però, Zedin, è vero che usciti dai nostri brugioni. La maggior parte sono spacciatori, hanno passato. Assolutamente. Su questo sono perfettamente d'accordo con lei. Le radici, le radici di questo terrorismo sono sicuramente molteplici. C'è il tema: questi terroristi sono nati in Europa, spesso non hanno neanche frequentato le moschee, sono vissuti in delle periferie dove hanno trovato le difficoltà che trovano tanti altri loro coetanei. Non c'è il lavoro, la mancanza di una realizzazione personale. Però arriva un momento nel quale c'è questa specie di chiamata all'ideologia della purezza, al jihad di matrice islamica. Questo non possiamo negarcelo. Io per questo ho detto: attenzione, non si può incolpare la comunità islamica, ma dobbiamo dire che tutti quanti noi abbiamo fallito. Ma per questo ho voluto sottolineare che tutti quanti noi abbiamo fallito. Fra queste anche noi, la comunità islamica, certamente. Ecco, però io insisto su questo punto: c'è, secondo lei, è giusta questa analisi che dice bisogna tirare a noi in qualche modo l'Islam moderato, cioè persone anche come lei, Zedin, e quindi ampliare questa distanza con un Islam più radicale? C'è questa contrapposizione, intanto, secondo lei, nelle comunità islamiche? Io preferisco chiamare che noi siamo musulmani. Sì. Poi ci sono musulmani che purtroppo fanno atti criminali, che sono assassini, che sono ladri, che fanno criminalità sia organizzata o criminalità comune. E noi abbiamo una sottolineatura che noi siamo europei di fede islamica. Va bene, questo crea all'interno del mondo islamico certamente un un confronto forte, fortissimo. C'è, ma questa preoccupazione, io glielo chiedo, anche se lei ha detto che non conosce in particolare la realtà del Belgio, ma questa preoccupazione sul fatto dell'influenza di un paese come l'Arabia Saudita, un paese dove c'è forte intolleranza, per esempio in Arabia Saudita altri culti religiosi non sono ammessi, non sono tollerati. Questa influenza sull'Islam europeo la preoccupa? Mi preoccupa qualsiasi pensiero che viene da fuori, su questo non ho dubbio. Infatti noi abbiamo cercato a livello italiano, a livello europeo, di creare le nostre strutture europee, avendo un rapporto con questi paesi, ma un rapporto di rispetto reciproco, senza essere sottomessi a un paese di qua o di là. Io personalmente sarei preoccupato di questo, perché è un paese nel quale, anche se l'Italia ha relazioni per esempio commerciali con questo paese, ritengo che sia sbagliato, un paese nel quale si ricorre alla pena di morte con tantissima facilità, nel quale la libertà religiosa non è ammessa se non il culto della religione islamica. Dobbiamo essere sinceri, certamente noi a livello delle comunità, credo a livello la mass media dobbiamo denunciare dove non ci sono libertà religiose, non c'è libertà, dove diciamo non sono rispettati la dignità dell'essere umano. Ma credo che i nostri politici, chi è al governo, è l'unico. Noi dobbiamo denunciare, dobbiamo cercare di fare delle menzioni, ma l'unico che possono chiedere a altri paesi nel mondo arabo, a livello mondiale, per rispettare la dignità umana, la libertà religiosa. E i nostri governi purtroppo fanno delle dichiarazioni come noi, ma la differenza è che noi non abbiamo il potere esecutivo e loro c'hanno lo... Va bene, il governo naturalmente è giusto, avrebbe il potere di prendere delle misure sicuramente più drastiche che riguardino l'Italia. Però per quanto riguarda per esempio le moschee italiane, lei sa quante sono finanziate direttamente dall'Arabia Saudita e da quel tipo di regime? Ma io credo che questo è dichiarato, cioè non c'è niente di nascosto. L'unica moschea, di quello che si sa, diciamo che è finanziata dall'Arabia Saudita, la grande moschea di Roma, l'unica moschea che è finanziata, un finanziamento diretto dall'Arabia Saudita. Non mi sembra e non mi risulta che ci sono finanziamenti da fuori. Nelle altre. Ci fermiamo un secondo, Zedin, se può restare ancora con noi. Abbiamo le informazioni sul traffico e poi torniamo tra pochissimo. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. UFO su Firenze, UFO su Firenze, come il marziano a Roma. UFO su Firenze. Io vorrei che queste persone si sentissero a tutti gli effetti cittadini europei. Preferirei che potessero costruire le loro moschee come si costruiscono le chiese, cioè con il denaro pubblico. In Italia c'è l'8 per mille per la Chiesa Cattolica, ma c'è 1,5 milioni di musulmani che non sono riconosciuti. Eccoci qua di nuovo, buonasera, Zedine Elzir, imam di Firenze, presidente delle Unioni delle Comunità Islamiche in Italia. Ha sentito la proposta dell'ex presidente del Consiglio D'Alema? È d'accordo? A noi da 25 anni che stiamo chiedendo la possibilità di fare l'intesa con il nostro Stato, dove all'interno dell'intesa c'è una clausola del 8 per 1000, certamente. È un diritto sancito per l'altro dalla nostra Costituzione, che spesso si parla della nostra Costituzione, ma quando si arriva a parlare dei diritti verso la comunità islamica si ferma. In che senso si ferma? Si ferma perché la Costituzione sono dei principi che hanno bisogno di legislazione che per metterla in pratica. Per quanto riguarda la religione in Italia c'è il concordato, quindi necessiterebbe anche un intervento, lei dice, in questo senso, quindi è d'accordo con la... È concordato con la Chiesa Cattolica, ma ci sono le intese con altre 13 realtà religiose, 7 col mondo protestante, 2 col mondo buddista, una col mondo ortodosso e così via, una con la comunità ebraica e così via. E allora è giusto, rispettando la nostra Costituzione, e noi come comunità islamica, come UNCOI, abbiamo chiesto l'intesa come un atto di responsabilità, okay, verso i nostri concittadini. Però, Izzedini, io questo le voglio chiedere: per fare, sì, questa integrazione, per fare questa intesa, ci vogliono due volontà reciproche. Oggi noi, certo, tutto sommato, forse conosciamo anche poco i valori dei musulmani in Italia. Ci si conosce poco, forse. Io vorrei fare con lei un piccolo test. Per esempio, vorrei chiederle se lei è d'accordo su alcuni punti che sono un po' il modo in cui noi, per esempio, in Europa vediamo la questione della religione, visto che stiamo parlando di un'intesa tra lo Stato italiano e la religione islamica. Il nostro modo, diciamo, laico e tollerante, mi verrebbe da sintetizzare. Per esempio, il principio laico, che io banalizzo così: la religione è un fatto privato e non un fatto pubblico. Lei su questo è d'accordo? Allora, innanzitutto, la laicità, io preferisco dire rispetto, non tolleranza, perché tolleranza c'è sofferenza, ma i nostri principi di rispetto della laicità. La laicità, noi come comunità islamica lo consideriamo un principio molto importante che garantisce la libertà di tutti i cittadini, è una laicità accogliente e non escludente. E questo, su questo noi lo consideriamo la nostra, perché, ripeto io quello che ho detto all'inizio, noi siamo cittadini europei, italiani, di fede islamica. Però il concetto che la religione, quello che potrei dire io, Alessio Maurizio, io dico la religione, secondo me, è un fatto privato, e sono contento che lo Stato italiano non ne faccia delle leggi, non discrimini le leggi sulla base dell'orientamento religioso. Ma assolutamente, ma lo stesso, almeno la stessa fede religiosa islamica non si può discriminare, non può essere un discriminante sul fattore religioso. Infatti noi condividiamo l'articolo 3 della nostra Costituzione al 100%, che non si può trovare differenza fra cittadini sulla base di sesso, di razza, di fede religiosa, di lingua, di colore, e la laicità è un fattore positivo che è stato creato da noi uomini, sì, che deve rimanere nella nostra realtà, ma deve essere una laicità come lo come lo consideriamo in Italia, una laicità accogliente e non escludente. Senta, ma lei si sentirebbe di dire che un cristiano è un suo fratello? Questa frase lei la dice, allora, la può dire? Allora, io penso che lei, Zedine, è un musulmano, è un mio fratello. Allora, concordo con lei prima che non si conosce l'Islam, non si conosce la comunità islamica. Noi diciamo che siamo tutti quanti, siamo un'unica famiglia umana. All'interno di questa famiglia ci sono fratelli, uno ha abbracciato l'induismo, l'altro l'ebraismo, l'altro il cristianesimo, e l'altro fratello ha abbracciato l'islam. Quindi lei non ha nessun problema a dire il... Ma io vado oltre, l'altro, sì, fratello che non ha abbracciato nessuna fede religiosa, è un fratello che non ha una fede divina, ma ha una fede nella natura, nell'umanità. Perciò anche quello che non crede è nostro fratello. È fratello, perfetto. Io, per esempio, che non sono credente, posso essere suo fratello. E questo mi fa piacere, Izzedine. Sui comportamenti, invece, una persona, per esempio, che beve un bicchiere di vino tutti i pasti, tutti i giorni, per me è una persona, diciamo, normalissima, proprio completamente normale. L'Islam moderato, cosa dice su questo? Io preferisco dire l'Islam, perché il moderato è un aggettivo in più. Rimaniamo sui musulmani e sull'Islam. L'Islam, il musulmano non beve alcol, ma non ha problemi se uno beve l'alcol, è la sua libertà. La anche sua uno che si beve una bottiglia di whisky dall'inizio alla fine, questo problema sua. È un problema suo. Non è una persona, massimo, non è un traditore, uno da curare. Al massimo posso cercare di darlo un consiglio che ti fa male. Vabbè, sì, una bottiglia di whisky tutta di fila fa sicuramente male, sono d'accordo. E sulle donne, una donna che non vuol mettersi il velo, per esempio una donna occidentale che non mette il velo, come la giudica? Ma questo è il discorso che noi consideriamo che la libertà solo l'abbiamo acquisita noi in Occidente. E la libertà è realmente è l'essere umano nato libero, e nessuno può condizionarlo. Né una fede religiosa, né una legge umana. Quindi una donna islamica oggi in Italia può lavorare, può andare in giro senza velo, diciamo, tranquillamente. Se è una sua scelta. La donna musulmana libera sia mettere il velo che non mettere il velo. Questa è la persona umana che decide. Ma se la persona è libero a scegliere la fede, figuriamoci a mettere un velo o no. Grazie Izzedin, devo chiudere, grazie, grazie, buona serata Izzedin del Zir, GR, ci risentiamo subito dopo. Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffei, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, tutti i sabati alle 10 e alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Sa una da cira a cocoruno, basterà un minuto di minare le mani, vanno pure a cira. Un problema non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il cane sottomette, non solo per denaro. Il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero. Lo psico pipistrello evita la luce. Lo porta il padre e non si riproduce. Giù le mani dagli animali, giù le mani dagli animali, giù le mani dagli animali. Lui la veda, i serpenti sono... Ma guarda, c'hai paura! C'hai paura! C'hai paura! Una merda! Siete tutti poveri! Pensate per la morte degli animali! Cazzoniti! Tanto la mettiamo fuori! Ciao a tutti, buonasera da Alessio Maurizi, benvenuti, ben ritrovati con Si può fare, stiamo insieme fino alle 21 questa sera nell'orario della Zanzara, che venerdì, come avete appena sentito, si è conclusa in quella maniera lì, con gli animalisti e i vegani fuori dagli studi di Radio 24 a aspettare Giuseppe Cruciani, che cosa ha fatto? Ha esagerato nella sua provocazione invitando un agnello con il suo allevatore nello studio e insomma facendo capire che la fine dell'agnello, che è quella di, in quel caso lì, di finire arrosto, è una fine che non gli dispiaceva più di tanto. Una provocazione a amici animalisti, amici vegani, una provocazione sicuramente, però cosa c'è di diverso da quello che fa la maggioranza degli italiani a Pasqua, che si mangia l'agnello? Io non l'ho mangiato l'agnello, però sicuramente qualche altra carne l'ho mangiata in giro qua e là, non capisco dove sta la provocazione. Cioè ci sono le macellerie, allora dovete andare di fronte a ogni macelleria e impedire che si venda la carne, ma come è stato detto giustamente, siamo in una democrazia, decide la maggioranza, ci sono delle leggi che vietano delle cose e delle altre cose che non sono vietate. Comunque 800 24 00 24, chiamateci, per esempio, come si fa, cosa si mangia in una Pasqua vegana o in una Pasqua vegetariana, ecco, questa è una cosa che ci potete raccontare. Ancora voci dal fine settimana. Perché ogni tanto qualche... Chi non ha mangiato l'agnello non è cristiano, perché diciamo l'agnello è il simbolo della Pasqua, è ciò che Cristo ha mangiato nell'ultima cena. Ci sono fior di cristiani che non mangiano chi non mangia l'agnello, no, mi dispiace, cioè, voglio dire, uno può anche non mangiare l'agnello, però non può dirsi cristiano. Gesù Cristo ha mangiato l'agnello durante l'ultima cena e durante tutta la sua vita di ebreo osservante. Questa è la tesi di Camillo Langone. Direte voi, chi è? È un giornalista del Foglio che dice: se non mangi l'agnello addirittura non sei un buon cristiano. Una tesi un po' tirata per i capelli, perché allora in questo senso tutti i vegani, tutti quelli che non mangiano la carne non potrebbero essere dei buoni cristiani. Ma perché, signora Langone, ma perché adesso dobbiamo prendercela addirittura con chi non mangia l'agnello? Va bene, ancora voci. Io porto una cravatta di seta. Bene. Probabilmente anche Parenzo porta una cravatta di seta. Ma solo 20%. Anche il bacco da seta è un animale. Ma non solo è un animale il bacco da seta, sono quasi animali quelli che lavorano la seta nelle fabbriche dell'India e della Cina, dove compriamo la seta tessuta per fare le cravatte. Quindi? Allora, l'allevamento intensivo dei cinesi che lavorano la seta fatta in allevamenti intensivi di bacchi da seta non è molto diverso dall'allevamento intensivo di polli. Io vorrei che queste persone si sentissero a tutti gli effetti cittadini europei. Preferirei che potessero costruire le loro moschee come si costruiscono le chiese, cioè con il denaro pubblico. In Italia c'è l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, ma c'è 1,5 milioni di musulmani che non sono riconosciuti. L'8 per 1000 anche per i cittadini musulmani, cioè la possibilità per chi è di religione islamica di dare una parte della propria dichiarazione dei redditi, una piccola quota per la propria religione, in modo, come dice Massimo D'Alema, poter costruire le proprie chiese senza dover aspettare i finanziamenti dall'Arabia Saudita, dai paesi più integralisti. L'Arabia Saudita è un paese nel quale non c'è libertà di religione, è un paese terribile da questo punto di vista. Cosa ne pensate, ascoltatori? 800 24 00 24, siete d'accordo? Io personalmente, dopo aver sentito l'intervista di Zedine Elzir, il presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, sono contento di avergli sentito dire frasi del tipo: un cristiano o un ateo è mio fratello, oppure chi beve vino tutti i giorni faccia come gli pare, è liberissimo di farlo, oppure una donna islamica è libera di scegliere di mettersi il velo o di non mettersi il velo, libera, una parola che ha detto chiaramente, ha ripetuta. A me personalmente fa piacere sentire Zedine Elzir dire che l'Arabia Saudita sbaglia quando non concede la libertà di religione in quel paese, e qualunque influenza che venga dall'estero e in particolare da quel paese, per noi europei e islamici ci preoccupa, ci spaventa. Io sono contento di aver sentito dire a Elzir queste cose qua. L'unica moschea italiana finanziata dall'Arabia Saudita è quella di Roma, la grande moschea di Roma. 800 24 00 24, cominciamo con l'intervento degli ascoltatori. Abbiamo Vincenzo che ci chiama da Palermo. Buonasera. Buonasera, io penso questo, diciamo, seguo spesso la Zanzara di Cruciani. Cruciani è un provocatore, allora è ovvio che l'effetto che ha ottenuto è che i vegani siano andati sotto la sede di Radio 24. Vincenzo dice l'effetto è proporzionato all'intenzione. Esattamente, io penso che chiunque, Cruciani può tranquillamente mangiarsi a casa una bella fetta di carne, però se in trasmissione continuamente Cruciani ci racconta dell'agnellino che si chiama Zanzarina, del coniglio che ha squartato. Io devo dire, non l'ho ascoltata la puntata, quindi non lo so. Ma guardi, non lo è so. Però so più o meno quello che è successo. Io seguo la Zanzara abbastanza frequentemente e sono infastidito dal fatto che Cruciani continuamente debba parlare della carne che viene mangiata da lui, che la sera si mangerà il coniglio, che poi si mangia la quaglia. Che tu dici chi se ne frega, mangi quello che gli pare. Bravo, ho capito, Vincenzo, però se tu continui ad ascoltare, evidentemente ci sarà un motivo, ti interessa. Ma ogni tanto veramente mi suscita, mi suscita orrore Cruciani, ma questo è un altro paio di maniche, non voglio parlare di questo nella sua trasmissione. Però il punto è, la provocazione produce questo. È strano che poi voi vi stupiate che c'è la gente sotto Radio 24 che viene a protestare. Ripeto, io sono stato per certi periodi vegani, adesso non lo sono più in senso stretto. Cosa fai adesso? Mangi qualcosa che deriva dagli animali? Ti definisco un vegano peccatore, nel senso che ogni tanto ritengo sacrosanti i principi del veganesimo, sia da un punto di vista salutistico che da un punto di vista... Però due uova al tegamino ogni tanto. Però due uova al tegamino ogni tanto, anche un formaggio. Anche ogni tanto. Beh no, scusami, anche una fettina di carne? Ogni tanto devo dire sì. Beh allora, più che un vegano peccatore sei una persona normalissima. No, sono un vegano peccatore. No, perché è come capire, non è che perché un cristiano... Cioè la base della tua alimentazione, Vincenzo, è vegana. Però ogni tanto, ogni quanto. Però ogni tanto... Ogni tanto mi permetto dei peccati. Quindi però che ne pensi di chi invece non è vegano? Guarda, io non è che io penso niente, che... cosa vuoi pensare? Sei tu stesso che no, sei un peccatore. No, io penso che anche chi non è vegano sì. debba avviare una riflessione su che cosa facciamo noi gli animali. Sì. Su come questo sicuramente questo, assolutamente. Sì. Dico giusto, questo a prescindere dal fatto che poi uno faccia la scelta impegnativa di diventare vegano. Però io non capisco che cosa c'è che disturbi nella provocazione. Nel momento nel quale ci sono le macellerie piene, ci sono le casalinghe che cucinano l'agnello, gente che si rovina di mangiare carne. Poi, siccome questa cosa viene esposta in un certo modo. Però è l'ostentazione quella che ferisce. No, nel senso. Se alla fine io ho la macelleria, vendo la carne, nessuno va lì a disturbare una persona che fa il suo lavoro, però se tu fai un'ostentazione di questa tua uccisione degli animali, no? Se io racconto nel programma l'animale sgozzato, allora questo ovviamente credo che ferisca, lei lo comprende bene, è diverso dal dire... Io continuo carne, a darti del tu mi dai lei, è bellissimo. Vabbè, dice, questo, però voglio capire, tu fino con la tua trasmissione anche, l'apprezzo molto più la zanzara, te lo voglio dire. Vabbè, grazie, ma io voglio capire fin dove arriva questo tuo disapprovazione rispetto alla provocazione. No, di Cruciani. Io credo che la provocazione, no, io credo che è come il discorso, non so che ti ricordi. Quando però l'aggressione sì, cioè se ti ricordi quando quello della Lega portò il maiale nella zona dove si doveva fare la moschea, oppure ti metti la maglietta con il maiale, cioè sto facendo ovviamente cambiando contesto, allora tu vuoi provocare una reazione capire se secondo te la reazione dei vegani che l'altra sera sono venuti sotto la sedia di Radio 24 era giusta, cioè con gli slogan urlando, minacciando, entrando, scalpitando, hai visto forse anche il video? La provo perché è proporzionale alla provocazione di Cruciani, solo per questo, cioè io non ritengo che i vegani debbano andare in giro a offendere le persone, però ritengo che se tu lanci una provocazione, poi è chiarissimo. Vincenzo, grazie. Io più di questo non posso dire perché io non ho sentito la puntata, quindi non so di che tenore fosse questa provocazione. Gabriele da Varese, anzi no, prima Sasha da Trento perché era in attesa da prima. Sasha, buonasera. Buonasera dottore. Niente, volevo intervenire, cioè io posso dire che penso che la democrazia fino a un certo punto va bene, vedi, anche parliamo di agnello, di maiali, perché mia figlia se va in scuola, se viene un marocchino, sua figlia non può mangiare carne di maiale, ma chi se ne frega, loro lo sanno che qua si mangia carne di maiale, non dovevano venire. Anche le moschee possiamo parlare, io dico la moschea, per me è centro logistica di Al Qaeda, di quei talebani. Le moschee, loro vogliono venire qua a costruire le moschee. No, come Sasha? Cioè ogni moschea è il centro logistico di Al Qaeda. Ma io ti garantisco questo. Lei lo sa, io sono serbo di origine. Dico, giù in Kosovo, specialmente anche in Bosnia, dove abitano i musulmani. I musulmani a quelle parti non sono stati trattati benissimo. Guarda, non è vero questo. Guarda che non è vero. Questo boomerang che è venuto adesso, guarda, che i francesi hanno bombardato serbi in Bosnia e in Sarajevo, capito? E loro venivano i mujahideen che tiravano i bambini. No, scusami Sasha, se tu vieni a dire che qualunque moschea è una base logistica di Al Qaeda, ti rendi conto che è un po' forzata? Ma lei lo sa cosa c'è dentro? No, io però so che i terroristi di Bruxelles era gente che non ci andava neanche in moschea. Ma non è vero. Guardi, io ti garantisco. E lì il centro logistica, i spazio soldi, quelle robe là, te lo garantisco. Lo garantisci perché? Perché hai spiato tutte le moschee d'Italia e del mondo? Io riconosco, lo conosco la gente, vedo, basta andare a prendere caffè e tutto quanto, sento, capito? Dove? Il caffè dove, Sasha? Ma io dico, prendo a Torino, posso prendere, vado in giro, cioè prendi un caffè dove? Parlato, in una moschea? Non ho capito, prendi il caffè? Io non vado a moschea, però dico, sento che parlo i marocchini, algerini, con la gente là, hai capito? Cioè, e cosa dicono queste persone che senti? Ma io sento cosa un po', perché lo capisco, un po' d'arabo, capito? Ma cosa dicono, Sasha? Ma parlano male, sempre parlano. Io l'ho detto loro, ho detto, senti, se non ti va bene, prendi le valigie e te ne vai via. Cioè, io devo spendere i soldi per fare le moschee. Io preferisco fare un campo sportivo, ma chi me frega le moschee sì. qua? No, però un momento, Sasha, la questione... Qua, scusa, dico, Sasha, la questione... No, la questione... Aspetta, Africa, Sasha, fammi parlare, Sasha. Sennò così non si può andare avanti. La questione dell'8 per 1000, però, è una libera scelta del cittadino di dare il suo 8 per 1000, non il tuo o il mio, il suo... alla sua religione. Questo è una questione di libertà, eventualmente, non è che coi soldi pubblici. Islam, non esiste moderato Islam, Islam sempre è Islam, hai capito? E lei se lo sposa, guardi, se sua figlia sposa un musulmano devi convertire, perché devo convertire. Ma Sasha, ma non è così, cioè sicuramente, guarda, e il zio probabilmente è stato troppo debole quando gli ho chiesto, aspetta, fammi parlare Sasha, quando è stato troppo debole quando gli ho chiesto del fanatismo islamico che c'è nelle comunità islamiche, un radicalismo, un vedere la religione in una maniera di purezza, per cui o sei dentro o sei fuori, e ci sono dei comportamenti che loro non ammettono, questo c'è, e secondo me il zio è stato troppo debole nel dirlo, però la sua posizione su altre cose invece è stata molto netta. Le donne sono libere, ognuno professa la sua religione liberamente, si può vivere da fratelli essendo di religioni diverse. Questo per me è un impegno importante, io personalmente sono contento che lui lo abbia detto. Impossibile, sì. Ma la garantisco. Va bene, io impossibile. Dico, fortuna che sono pochi, dico, guarda che... Ma Sasha, sono pochi, ma sono sempre di più, perché le stime dicono che di qui a 20 anni saranno sempre di più, e sono già molti adesso. Comunque, grazie Sasha, buona serata. Avevamo, dunque, Gabriele da Varese, buonasera. Gabriele? Sono in onda? Yes. Sì, buonasera. Senta, micro cappellino e poi un piccolo commento. Ho più di 60 anni, da oltre 40 anni sono vegano e sono nutrizionista, fra l'altro, di professione. Ora, fermo restando che ho lanciato una battuta ai signori della redazione dicendo che secondo me li avete raccolti, non dico lei, ma li avete raccolti a 20 euro l'uno i matti che c'erano sotto. Però io non li ho mai incontrati in tutti gli anni di professione, dei matti del genere. Vero, ma i matti sono matti sempre, non... Gabriele, sono d'accordo, i matti sono matti, che siano... Lei si ricorda quando, adesso io forse avevo qualche anno di più, però quando è uscito la prima volta, faccio un esempio laterale, insomma, Jesus Christ Superstar, che c'erano stati dei cattolici fondamentalisti che avevano fatto, mi perdoni l'espressione, un gran casino davanti al cinema dove si trasmetteva, sì, qui però nessuno si è sognato di dire che i cattolici sono dei nazi cattolici, come il signor o dottor Cruciani fa chiamandoli nazi vegani. Mi perdoni, io sono un vegano, sì, non sono un nazi, e con me migliaia come me. Però scusa, l'unico Gabriele, mio peccato è di aver fatto il 68, sì, ecco, no, vabbè, ma questo che c'entra, no, anzi, è un titolo storico, crede. Però voglio dire, è vero che c'è da parte di alcuni che si professano vegani o animalisti una forma di intolleranza verso chi liberamente decide di non esserlo, o no? Il buon Giuseppe Cruciani è nel suo personaggio, è chiaro che se lui dovesse fare come il buon Cavallina ai tempi di Chiamate Roma 3131, nessuno ascolterebbe più la Zanzara. Sì. Per cui, sa come dicono gli irlandesi, se tu cerchi guai è un peccato se non li trovi. Torniamo al discorso di prima. Una risposta misurata alla provocazione di Cruciani. Bene, Gabriele, però 40 anni di nutrizionista e di vegano, si è giunta a qualche conclusione? Certo. Quale? Una serie di conclusioni. La prima è che si può benissimo vivere facendo i vegani, come sì, c'è anche chi vive mangiando carne 5 volte al giorno. Problemi no, loro, chiaro, questo sì, degli altri. Questo sì, però da nutrizionista avrai una posizione sul fatto se si vive meglio in un sì, modo o nell'altro. Ma infatti il filo rosso anche delle mie lezioni, ho avuto anche così l'avventura di pubblicare dei libri, faccio lezioni, mi chiamano ogni tanto anche all'università, eccetera, è quella che innanzitutto si può vivere essendo vegetariani, virgola, vegani, e che questo non costa nessun problema alla salute, punto. Detto questo, ognuno fa la sua scelta. Io non ho mai detto a una persona di smettere di diventare, cioè di essere onnivoro, no? Mm-hmm. Perché non c'è motivo, una persona non deve forzarsi. Poi dopo il matto lo trovo dappertutto, sempre che non sia prezzolato, mi perdoni, perché mi piacerebbe parlare con questi qui ogni tanto, proprio da vegano, quindi sarei, come dire, al riparo, no? Non verrei, non mi toglierebbero la pelle di dosso come forse volevano fare al povero Cruciani. E dicendo, ma ragazzi un po', spiegatemi perché gli volete saltare addosso queste persone. Cercate semmai di non dico convincere perché è una brutta parola, ma di spiegare perché lo siete o che, ma... sa, io sono dell'alta Lombardia, ma anzi in realtà sono milanese fuggito qui. Come si dice, chi usa più se la vacca le sua, no? Non è così il discorso. Non è che urlando di più Cruciani con il dalla parte della radio o questi signori giù da basso gridando ti ammazziamo, assassino, cose del genere. Ma queste qui sono cose che vanno bene, come dico, per fare un po' di spettacolo. Buffonate, pagliacciate. Gabriele, grazie, buona serata. Se voleva aggiungere qualcosa, però mi pare che... L'importante è sapere che si può vivere anche, no, sì. Dico anche, lo dico da vegano da tanti anni, e sono ancora vivo e vegeto, si può vivere anche da vegani, oltre che da vegetariani. Però bisogna prendere anche quelle pilloline lì per integrare, perché sennò si sviene, no, a un certo punto. La B2, quella famosa vitamina, come si chiama? Ma la B12, se vuole ne parliamo un po'. La vitamina B12 non viene sintetizzata se non dai batteri, né alimenti vegetali. Né alimenti animali possono sintetizzarla. Questi tutti gli ultimi studi lo quindi dicono. Quindi uno può smettere di mangiare tutto quello che deriva dalla carne senza avere uno scompenso. Io non credo che sia proprio così semplice, per quello che ho letto e per quello che anche delle testimonianze indirettamente a me vicine, ma insomma, Gabriele, può darsi. Io poi non sono un medico e non mi interessa nulla. Grazie, buona serata, abbiamo una pausa, torniamo tra un attimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sicilia ovviamente, perché è accaduto che durante una processione, la processione stessa sia stata deviata per farla passare, niente po' di meno che ancora una volta sotto casa di chi? Del boss. Nella fattispecie il boss mafioso Francesco La Rocca, detenuto in regime di 41 bis, siamo a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, e è con noi il sindaco Gianluca Petta. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Ganzaria, ho detto bene, o Ganzaria? Ganzaria, no, Ganzaria, no, Ganzaria, Ganzaria, certo, alla siciliana. Ganzaria. Senta, Ganzaria. Sindaco, intanto alcuni giornali online scrivevano una processione con inchino davanti a casa del boss, usando il condizionale, avrebbe deviato, sarebbe passata. Invece lei ce lo conferma, è successo, perché lei addirittura se n'è andato, no? Si è tolto la fascia perché era indignato e se n'è andato, quindi ci conferma la notizia. E allora per dovere istituzionale devo dire che il percorso è stato deviato non per andare almeno credo a casa diciamo del boss locale, perché quest'anno l'autorità ecclesiastica locale ha cambiato il percorso riducendolo un po' rispetto ad alcuni quartieri, ad alcune strade che per tutte le processioni, comprese questa dove abita questa persona, sono sempre andate le processioni. Allora, però scusi sindaco, non aggiunga confusione e non facciamo troppa confusione. Intanto non è un processo alle intenzioni, questo lo capiremo dopo. Se è stata deviata perché si voleva andare sotto casa del boss o no, è una questione che vediamo. Però intanto la processione rispetto al percorso che avevate deciso è stata deviata o no? Allora la processione non è stato rispettato quello che è il percorso autorizzato dall'ordinanza. Quindi dall'ordinanza è stato cambiato il percorso e questo lei ce l'ha spiegato prima dell'intervista, è stato ripreso il percorso che era stato fatto fino all'anno scorso, è così? Sì, esatto, ha detto bene. Quindi il motivo per cui voi avevate cambiato il percorso in questa riunione dell'ordinanza, lei ci sarà stato, credo, no? Come sindaco. Ma io ho preso atto da parte della decisione dell'autorità ecclesiastica locale, ufficiale, quindi del parroco, del comitato festeggiamenti, diciamo della decisione quest'anno di cambiare il percorso, ma per una serie di motivazioni. Però ci possiamo dire che io capisco tutte le motivazioni adesso per non sollevare il polverone, per non dare ragione al boss, tutto quello che... Però tra le motivazioni ci sarà stato anche quello di non passare sotto casa... No, assolutamente. Guarda, è un paese piccolo. Sì. Allora, questo è un quartiere storico dove tra l'altro esisteva pure una... Cioè, scusi, però io non la seguo. Cioè, lei dice che non è stata cambiato il percorso quest'anno della processione per non passare sotto casa del boss. Chi se ne frega del boss? E va bene. Però adesso che invece la processione passa sotto casa del boss, lei si toglie la fascia e se ne va. Quindi un problema ci deve essere da qualche parte, o no? E allora io ho tolto la fascia e quindi insieme a tutti gli altri amministratori siamo andati via, quando ovviamente il non rispetto delle regole da parte di chi poi stava portando il simulacro, quindi ha disatteso quello che era il percorso autorizzato. Abbiamo preso le distanze sia noi amministratori che il parroco che le autorità presenti, per evitare tensioni, se la fare il percorso, poi diciamo la processione è andata tranquilla, addirittura il simulacro è rientrato ancora prima, molto abbondantemente prima rispetto agli anni precedenti. Quindi è successo questo, assolutamente quel quartiere, diciamo in quel quartiere tutte le processioni sono andate da sempre in quel quartiere, come nelle altre, in altre strade, in altre vie del paese. Quindi le stesse vie sono state riprese, quindi tutta la serata. Sì. Quindi hanno pensato in maniera autonoma. Quindi lei se n'è andato non perché è passata sotto casa del boss, ma perché non hanno rispettato il percorso. È questo, mi sembra un po' barocca come cosa, sindaco, sinceramente. Non è barocca, cioè nel senso che ovviamente una volta che non ti rispettano le autorità, che... diciamo ci sono delle regole che vanno rispettate. Però scusi, non ci nascondiamo dietro a un dito. Se non hanno rispettato il percorso, esatto, è perché avevano interesse, intenzione, volontà di andare da un'altra parte. Certo, quindi riprendere il percorso originario. No, assolutamente, questo qui glielo posso sottoscrivere. Di tradizione, per amor di tradizione? Per una questione di tradizione. Io, quindi lei esclude che la questione del boss c'entri qualcosa con la processione? No, con la processione assolutamente. Cioè, guardi, non mi sento di escludere assolutamente nulla. Se poi qualche malintenzionato ha avuto qualche altra idea, ha fatto questo gesto per raggiungere quell'obiettivo, e allora siccome è aperto un fascicolo, quindi c'è un'inchiesta in corso, se ne assuma personalmente la responsabilità. Ma chi vuole che vada ad assumersi, scusi, adesso mi sembra che, chi vuole che vada ad assumersi la responsabilità di dire ho deviato la processione perché volevo andare sotto casa del boss? Non lo dirà mai nessuno, però questo è quello che è successo. Mi sembra che lei si stia nascondendo, glielo dico sinceramente, dietro al dito indice. Io non ho bisogno di nascondermi perché... ero presente con tutte le autorità tranquillamente una volta che è stato deviato il percorso. Guardi lì sopra, questo è un quartiere... Scusi, lei ha fatto un gesto forte, si è tolto la fascia e se n'è andato. Un sindaco secondo me non fa un gesto così forte se non c'è un problema grosso. Se fosse stato che avevano sbagliato un marciapiede piuttosto che l'altro, il lato della strada, probabilmente lei non si sarebbe tolto la fascia. Lei si è tolta perché c'era un fatto grosso, una provocazione. Perché... Lei si immagini che durante una processione dove c'è un percorso con tutte le autorità, tanto di forze dell'ordine, il sindaco in veste ufficiale, con tutta la giunta quasi al completo, la processione e si fa un applauso e si devia il percorso, diciamo non è una cosa carina nei confronti delle autorità, delle istituzioni. Sì. È stata fatta una prima volta, quindi verso questo quartiere. Successivamente si è rifatta, ma prima che fosse deviata su un'altra strada, io ho preso la fascia, ho detto queste parole, guardi, quindi le posso sottoscrivere e confermare. Io non accetto più di rimanere qua ad assistere a questa buffonata. Mi dispiace, si poteva evitare concertando meglio assolutamente con tutti i portatori questi episodi che sicuramente non fanno bene alla nostra piccola comunità. Però scusi, lei aveva delle altre alternative che erano interrompere la processione, per esempio, credo. Guardi, insieme ovviamente alle forze dell'ordine ci siamo fermati un attimo e fare le opportune valutazioni. Interrompere magari si sarebbero creati dei disordini sociali. Quindi, ma l'altra alternativa che aveva era proseguire magari senza fascia la processione e vedere poi se facevano l'inchino o no. L'hanno fatto l'inchino sotto casa del boss? Allora l'inchino io non sono salito, giustamente sono delle zone che debbono conoscersi, quindi è stato deviato, quindi si è fatta questa salita, questa abitazione si trova in sommità ad una salita, ad una strada. La salita non l'ha fatta, via, ma non lo sa. Assolutamente no, ma nella maniera più assoluta. Ma non, però scusi, ma non perché lei non ha sospettato che sotto sotto ci fosse anche quello? Completamente guardi, caduto dalle nuvole lei? No, io l'ho saputo. Cioè lei lo saputo. Sapeva che in quella strada ci abita il boss o no? Ma certo che si sa che in quella... Ma pure allora le ripeto che ogni processione, sì, e qualcuno poi mi può pure smentire, ma non è così. Io ho 4 anni che sono sindaco di questa comunità, ogni festa, qui c'è la ricorrenza di San Francesco, del santo patrono San Michele Arcangelo, la festa del Venerdì Santo. Ma non quindi... ci faccia l'elenco di tutti i santi, perché sinceramente lunedì di Pasqua abbiamo già fatto l'indigestione, si figura. Oltre che Daniello anche di santi. Mi scusi, ma ma si figuri. Però scusi, torniamo un attimo alle motivazioni. Torniamo un attimo alle motivazioni per le quali avete allora deciso come comitato di spostare quest'anno il percorso della processione, sì, dalla strada, sì, dove c'è il boss, ad un'altra strada. Quali erano queste motivazioni? Allora, innanzitutto premetto che io non faccio parte del comitato, io sono stato invitato dal comitato, dal parroco, e le motivazioni sono queste, che sono state tra l'altro pubblicate con un avviso. Ci sono dei lavori in corso su una via centrale, c'è un problema di sicurezza poiché questo paese è attraversato da una statale, c'è una difficoltà nel reperire ogni anno i portatori, quindi si è deciso il comitato insieme al parroco, il consiglio pastorale hanno deciso di ridimensionare tutto il percorso, tagliando sia quel quartiere dove c'è l'abitazione incriminata tra virgolette, ma altre strade, altre vie, altri quartieri. Quindi scusi, se ho capito bene, i motivi sono che ci sono dei lavori in corso, assolutamente, e che si trova difficilmente personale per portare la statua. Motivazioni... La statua di chi? Di San Michele? Il simulacro del Signore. Mi scusi, io non sono preparatissimo sulla materia, non importa. E quindi... C'è una grande tradizione, una grande devozione su questa come su altre feste, ovviamente. Ecco, però poi il simulacro è stato effettivamente portato, quindi il discorso della mancanza di persone è stato superato, c'erano le persone. Sì, a quel punto è stato questo, diciamo, quello che... Diciamo, io non ho accettato. Non ho accettato io, ma nemmeno tutte le autorità e moltissime, perché la maggioranza dei cittadini. Se ci sono delle regole vanno rispettate, si concerta prima, si discute prima, si ci organizza e la manifestazione poteva proseguire così poi come è stata condotta. Sì. Guardi, per la prima volta... Ma quindi in sintesi, io ho capito questo, che l'anno prossimo i lavori non ci sono più, la processione tornerà ad essere autorizzata a passare sotto la casa del boss. Con questo sotto casa del boss, guardi che questa abitazione si trova in cima ad un quartiere, sì, che lei dice è inevitabile passare lì perché è un quartiere centrale, ma non sarebbe il caso, per dare un segnale invece proprio volutamente, di passare magari in periferia, in una strada non battuta da Dio e da nessuno, ma almeno non abitata dal boss? Sì, può darsi magari che poi c'è qualche parente. Siamo 3.000 anime a San Michele, quindi io per esempio abito in periferia, da casa mia non ci passo. Ecco, passiamo perché... sotto casa del sindaco anziché sotto casa del boss. Non vorrei, direi no dall'inizio, perché sennò veramente sarebbe troppo semplice. I suoi concittadini che invece erano al seguito della processione, non come lei che si è tolto la fascia e se n'è andato indignato, giustamente, ma io dico avrebbe potuto almeno andare a vedere che succedeva, gli hanno riferito, c'è stato o no l'inchino? Cosa le hanno detto? Allora, a quanto pare si dice che non c'è stato nulla. Ripeto, ci sono delle indagini in corso. A quanto pare, non è certissimo. Però l'inchiesta è stata aperta. La procura, che è un pochino più, ci vuol vedere meno bene di lei, è un pochino più, come dire, pensa ci vedrà, male. Ci vedrà sicuramente bene, benissimo. Tra l'altro meglio io, di lei forse, ma sicuramente non ero presente. Se ero presente, sia tranquillo che io la sera stessa sarei andato in procura a denunciare il fatto, quindi nella maniera più assoluta, se mai fosse successo. Va bene, sindaco, lei ha la mia solidarietà da un punto di vista che non deve essere facile essere sindaco di un paese come quello. Sì. Però io le voglio garantire una cosa, voleva molto a dire che l'hanno deviata per andare sotto casa del boss e che l'anno prossimo non sarà così. Guardi, se poi non sarà autorizzata, ovviamente non è più colpa mia, questa qui è colpa di chi ha eventualmente fatto questo gesto. Io le posso dire una cosa, e lo sto dichiarando da una giornata, io non ho paura, non ho timore di nascondermi, di niente, io sono un maresciallo della Guardia di Finanza, per dire, quindi non ho assolutamente, io non ho assolutamente nessun timore. Ogni fese, da quando che sono ragazzino, che ho vissuto qui, tutte lei è proprio che non è convinto che la processione sia stata deviata per quel motivo, lei non ha le prove. Guardi, è stata deviata su quella strada, è stata deviata su tutte le altre strade, che sia questa processione negli altri anni e sia tutte le altre processioni, hanno fatto tutti i santi. Quindi, va bene, abbiamo capito, grazie. Una cosa la voglio aggiungere, se mi permettere. Perché, ne ha dette tante, sì, ancora una. No, io sono stato contattato gentilmente, diciamo, ho dato la mia disponibilità. Sì, no, ma certo, dica. Allora, voglio dire assolutamente questo. Io voglio dire che la comunità che rappresento ovviamente ha dimostrato e dimostra sempre grande senso di civiltà, di responsabilità, di correttezza, di lealtà. Se poi gli inquirenti confermeranno che lì su, diciamo vicino all'abitazione di questa persona, è stato compiuto un gesto insolito, un gesto sicuramente, vorrà dire che allora tutta questa dignità non c'è. Quei singoli sconsiderati, è giusto che paghino e che chiedano scusa. E tutti quei singoli che spingevano al simulacro, quelli che gli andavano dietro e quelli che l'hanno fatto passare. Grazie sindaco, buona serata. Grazie, buona serata. Va bene, buonasera, arrivederci. Lo so, cari ascoltatori, vi ha convinto il sindaco? Sindaco Petta di San Michele di Ganzaria? 800 24 00 24. Vi siete fatti convinti che la casa del boss non c'entra nulla con la deviazione della processione? Io no, io sinceramente no. Oh, però giriamo la testa dall'altra parte, restiamo in Sicilia e andiamo a raccontare una storia che ci regala invece un sacco di soddisfazioni. È la storia di Santi Palazzolo, al quale intanto do la buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Benvenuto Palazzolo, pasticcere palermitano, uomo coraggioso, una storia incredibile la sua, perché forse anche a lieto fine, questo possiamo anticiparlo? Sì, lo possiamo anticipare. A questo adesso punto sì, adesso sì. Noi ci siamo sentiti tempo fa quando lei era in mezzo al guado. Lei ha denunciato un ricatto da parte del presidente della Camera di Commercio di Palermo, credo che fosse, vero? Sì, di Palermo. Che era vicepresidente anche della società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che gli aveva chiesto una mazzetta per poter continuare a gestire la sua pasticceria all'interno dell'aeroporto. Questa cosa è stata filmata proprio dagli inquirenti, perché era denunciata e Helg fu arrestato, giusto? Sì, è stato arrestato agli arresti domiciliari, chiaramente, perché ha la veneranda età di 82 anni. 82 anni, ancora andava in giro a chiedere tangenti, ma io dico uno, ma che andasse in pensione anche lui, no? Vabbè, invece no. È così. Lei, però, a un certo punto, Palazzolo, lei hanno negato poi che cosa? L'oggetto proprio dell'estorsione, cioè quella concessione. A un certo punto le hanno detto, va bene, la magistratura ha arrestato Egg, tutto bene, però la concessione non gliela diamo, la pasticceria non chiude. Sì, diciamo che subito dopo l'arresto del vicepresidente della società dell'aeroporto, e dopo un paio di mesi mi arriva questa lettera della società che gestisce l'aeroporto dicendomi che non mi rinnovano quella proroga che era prevista nel contratto e che quindi non era una cosa che io chiedevo al in più di quello che erano le condizioni contrattuali, certo, ma era prevista nel contratto, e non mi potevano, diciamo, concedere questa proroga perché dovevano bandire dovevano fare un bando di gara per l'affidamento pubblico. Anche qua mi viene da dire, riferendomi a quello che abbiamo appena sentito di San Michele di Ganzaria, c'erano delle motivazioni per non concederle questa proroga. Tra l'altro lei è un pasticcere conosciuto, affermato, molta gente si è battuta per lei. Lei è autore di questa denuncia, una denuncia, una rara forse denuncia, no, non voglio farla diventare un eroe, però non è da tutti andare a denunciare un'estorsione. Ci sono persone che magari legittimamente, in maniera forse meno eroica e coraggiosa, dicono io non me la sento, non denuncio. Lei invece, cittadino modello da questo punto di vista, però è rimasto, rischiava di rimanere fregato, perché possiamo dire che la sensazione era che la magistratura indaghi pure, però il sistema complessivo, il sistema economico, il sistema della Sicilia frena Palazzolo e gli toglie la concessione. Ma guardi, io voglio sottolineare una cosa che ho sempre ripetuto in tutti questi anni, in questo anno, perché è quasi già un anno e un mese che è successo il fatto. E io ho detto sempre che l'origine della mia denuncia è la concessione o meno della proroga per il mio punto vendita all'aeroporto, ma non è la motivazione. Sono due cose ben distinte e separate. La motivazione è solo una motivazione di carattere personale, di carattere etico, perché comunque io penso, al di là degli aggettivi coraggioso, eroe, che non c'entrano assolutamente niente con la mia vicenda, ma è un dovere civico di tutti, anche a rischio di quello che può essere un risultato economico o un'impresa. Ma ci sono delle cose che secondo me vanno al di là di qualsiasi tipo di motivazione economica, ed è proprio per questo che noi dobbiamo, cittadini, ognuno di noi, fare la nostra parte, perché se vogliamo effettivamente quel cambiamento che vogliamo, sì, e vogliamo avere sempre fiducia nella giustizia, cosa che io ho avuto fin dal primo momento, e dobbiamo metterci in condizione di sbracciarci noi e di fare la nostra parte. Bravo Santi Palazzolo, le chiedo se ha qualche minuto di attesa, perché c'è il giornale radio, però bisogna dedicare almeno un paio di minuti alla fine di questa vicenda e alla lieta notizia, perché poi alla fine questa benedetta concessione le è stata data. Quindi viva la pasticceria Palazzolo, viva l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, dopo il GR. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buonasera di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 21, 800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta con Santi Palazzolo, titolare della omonima pasticceria all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Dicevamo Palazzolo, ci siamo lasciati con il momento più bello dell'intervista da raccontare, quando finalmente la concessione vi è stata restituita, vi è stata confermata la proroga che era implicita nel contratto, per il quale poi lei aveva subito l'estorsione di Helg. Sì, noi avevamo aderito a un collegio arbitrale per la risoluzione di questa controversia, e proprio qualche giorno fa ci è arrivata la sentenza di accoglimento della nostra richiesta. Dopo una grande mobilitazione, tra l'altro c'è stata anche una petizione, tanta sì, gente guardi, mi ha sostenuto. Questa è una delle cose che ci ha dato intanto la forza di andare sempre avanti e soprattutto di essere sempre fiduciosi, perché questa petizione che è stata fatta dai miei collaboratori ha raggiunto una cifra di 56.000 firme nel giro di poche settimane, e la cosa che mi ha anche commosso è stato il fatto che i miei collaboratori, che rischiavano di perdere il posto di lavoro per il negozio che abbiamo in aeroporto, sono stati i primi a darmi la loro solidarietà e a invogliarmi ad andare sempre di più avanti. Senta Palazzolo, alla fine di tutto questo, lei cosa sentirebbe di dire a chi ha in animo o ha subito delle pressioni, magari dei ricatti, la richiesta di pagare il pizzo in Sicilia, purtroppo sappiamo, e non solo, che esiste. Cosa si sentirebbe di dire? Che consiglio, vista la sua vicenda, anche molto tormentata, che poi finisce fortunatamente bene? Guardi, io sicuramente la mia vicenda non ha avuto degli risvolti di minacce vere e proprie, perché comunque è stata una richiesta solo di tangente. Però questo mi ha fatto riflettere molto su quella che è la nostra, diciamo, situazione in Sicilia, e devo dire che non ci sono alternative, bisogna denunciare, bisogna andare fino in fondo, perché non meritiamo noi cittadini d'Italia, soprattutto cittadini di questa Sicilia bellissima, di soccombere solo per un pugno di delinquenti. bisogna che ognuno di noi abbia uno scatto di orgoglio, ma non solo per noi, per la nostra coscienza, ma per i nostri figli e per tutti coloro che veramente hanno dato la vita e quelli sì che sono eroi. Grazie Santi Palazzolo, buona serata. Grazie. A lei, arrivederci, buonasera, auguri a tutti. In bocca al lupo, e questa è la Sicilia che ci piace, non quella di San Michele di Ganzaria, che invece ha fatto deviare la processione a venerdì di Pasqua, prima di Pasqua, per passare sotto la casa del boss Francesco La Rocca, nonostante il sindaco, che si è pure tolto la fascia tricolore in segno di indignazione, poi non abbia voluto ammettere che così sono andate le cose. Andiamo con gli ascoltatori all'800240024. C'è Piero che ci chiama da Padova. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Volevo intervenire sulla questione di Cruciani con gli ambientalisti. Sì. Io sono uno che mangia la carne, ritengo un pochettino estremisti gli ambientalisti. Detto ciò, se uno cerca le provocazioni, poi gli altri rispondono in maniera analoga. Trovo un po' l'atteggiamento di Cruciani un po' così, sempre sopra le righe, sta cercando di fare un po' il personaggio, per cui chiaramente si pone in una posizione dove anche chi può avere un'idea diversa, solo la stessa idea, si trova un po' in difficoltà, in imbarazzo nel sostenere certi atteggiamenti che chiaramente danno fastidio a chi poi ne è convinto. Io sono... credo fortemente nella tolleranza, le macellerie sono aperte e vengono evidentemente riconosciute, questo non vuol dire però che poi nei confronti dei vegani o di chi ha un'idea diversa si debba avere un atteggiamento così arrogante, molto molto pesante insomma, per cui comprendo benissimo la reazione dei vegani pur non condividendo assolutamente la loro impostazione che la vedo un po'. Ma lei è vegano o vegetariano? Scusi, mi sono perso. Io sono vegetariano, ecco. Sì. Scusa, mangio la carne, anzi reputo un po' i vegetariani, i vegani un po' estremisti, nel senso un po', credo che anche il mangiare si va mangiare un po' equilibrato. Comunque ognuno faccia quello che vuole, evidentemente. Queste mi sembrano parole più che sagge, proprio saggissime, Piero. Ed è anche quello che penso io. Siamo in un paese democratico, ci sono delle leggi, se uno non viola una legge, poi al di là di quello dovrebbe fare più o meno quello che gli pare. Grazie Piero, buona serata. Giovanni da Roma. Sì, salve. Prego. Sulla questione delle moschee, sì, direi che viene poco, anzi per niente, messo a fuoco il punto che secondo me è nodale, e cioè che nel mondo islamico non c'è una separazione tra Stato e Chiesa, tra mondo laico e mondo religioso, perché i due mondi sono compenetrati l'uno nell'altro, e l'uomo islamico non potrà in nessun modo deviare dal codice culturale e comportamentale, sì, che gli arriva dal libro. Cioè, però Giovanni, le posso chiedere una cosa, perché prego. Questa è una tesi, e in alcuni casi è anche vero, in alcuni paesi forse è vero nella maggioranza delle persone, in altri paesi invece anche l'Islam si sta secolarizzando un pochino. Non è questo un processo culturale che ha a che fare con l'evoluzione, con l'evolversi, col passare del tempo? Se guardiamo indietro, anche la nostra religione cristiana è stata totalizzante per un certo periodo, oppure secondo lei è proprio una questione dell'Islam? Ma no, è una questione dell'Islam, perché l'Islam nasce con una vocazione all'imposizione del libro che non ha mai enunciato gli strumenti dell'uomo crocefisso. Cioè l'uomo crocefisso aveva un intento di salvezza collettiva, di proselitismo, che è profondamente, storicamente, oggettivamente diversa dalla propensione panislamica che nasce e che si legge nel libro. Voi giornalisti, voi intellettuali, voi accademici, avete l'obbligo morale di, sì, non ignorare questa differenza. Vabbè, accademico a chi? Scusi, io non sono... No, sto scherzando. Ho capito, Giovanni. Abbiamo l'obbligo morale, noi giornalisti, di non ignorare questa differenza che c'è tra la tendenza all'evangelizzazione e la tendenza alla panislamizzazione. C'è una differenza di merito. Sa, Giovanni, cerchiamo tutti di capirci qualche cosa. Nessuno ha il verbo, nessuno ha la visione giusta, né lei né io né altri, credo. E cerchiamo tutti di capirci qualche cosa. Io ho intervistato il Zir, che è un rappresentante autorevole della comunità islamica, che ha detto delle affermazioni che secondo me sono importanti. Secondo alcuni ascoltatori sono balle, perché l'uomo islamico dice balle per definizione, questo è quello che mi scrivono alcuni ascoltatori. Io ritengo, non faccio il processo alle intenzioni, quello che ha detto il Zir, ritengo che frasi da lui dette come la donna è libera di scegliere di mettersi il velo, di non mettersi il velo nell'Islam, e così come altre affermazioni che ha fatto, siano affermazioni importanti, perché sono affermazioni impegnative e impegnano lui e una parte della sua comunità, quelle che gli va dietro, che la domenica, nel venerdì, vanno in moschea a pregare, a seguire quelle affermazioni, ha capito? Io questo penso, resto a questo, poi le visioni possono essere tante, diverse, e ognuno ha il suo punto di vista, lei aveva il suo, grazie, traffico, torniamo tra un attimo. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. La verità è una scelta, la verità è già pronta. Di giorno sempre un occhio chiuso, di notte uno aperto. La verità è una scelta, la verità è un'impresa. Di notte sempre un occhio aperto, di giorno un occhio sempre, sempre chiuso. La verità è una scelta di Ligabue per introdurre il prossimo ospite. È una storia che ha a che fare naturalmente molto, moltissimo da vicino con la verità. Diamo la buonasera a Renzo Martinelli, regista, buonasera. Buonasera a voi. Regista del film Ustica, in uscita nelle sale in questi giorni, il 31 marzo, è vero? È così. Eccoci qua. Allora, un film che affronta il caso di Ustica, uno dei misteri d'Italia più dolorosi sicuramente. Il trailer, io ho visto, c'è il sottotitolo Una verità inconfessabile, no? Sì. Lei ha lavorato 3 anni, Martinelli, con un sacco di documenti, di testimonianze importanti, arriva tra l'altro ad una verità, ad una sua verità sulla questione della strage di Ustica. Prima di arrivare a questo, però, le voglio chiedere, si è detto, scritto tantissimo su Ustica, perché parlare ancora oggi di Ustica? Perché 81 persone volano in fondo al Mar Tirreno in una sera di giugno e i familiari di queste povere vittime ancora aspettano di sapere perché i loro cari sono stati strappati. Certo. Ancora non sono in grado di dirlo. Allora, tra l'altro oggi Radio 24 ha fatto sentire alle 21.30 c'è un radiodramma Ustica, che è una specie di anticipazione, possiamo dire, di quello che è il film che sarà in sala il 31 marzo? Sì, è un modo diverso di comunicare, si chiama con un brutto termine comunicazione cross-mediale, quindi abbiamo fatto un libro, una graphic novel, un radiodramma, per arrivare... sono modi diversi di comunicare, esatto, la stessa cosa che è un film. Per arrivare il più possibile lontano a parlare, ripeto, di questo argomento dove manca ancora una verità giudiziaria, una verità storica probabilmente, anche se alcuni hanno in mente di quale potrebbe essere la verità. Tra questi c'è anche lei, Martinelli, che giunge a una conclusione in questo film, che non è un documentario poi, questo, no, diciamo, è un vero e proprio film, però certo, c'è una conclusione per quanto riguarda la verità di quello che sarebbe successo con la notte del 27 giugno dell'81. Ma guardi, io vorrei che le nostre istituzioni, perché di questo si parla, ci spiegassero che ci fanno dei pezzi di un F-5 americano in mare assieme ai cadaveri che galleggiano sul Mar Tirreno la mattina dopo la strage. Assieme ai cadaveri vengono ripescati un pezzo di lamiere 2 metri per 5 di un caccia militare americano, il seggiolino iniettabile, il paracadute, la cintura del pilota e il salvagente con la scritta US Navy. Domanda: che ci fanno questi pezzi in mare? Vorrei che le istituzioni ci spiegassero come mai dopo 9 lunghi anni il DC-9 viene ripescato e accanto alla fusoliera viene ritrovato un serbatoio subalare di un caccia americano ammaccato. Che ci fa un serbatoio ammaccato accanto alla fusoliera 19. Vengono ripescati i sedili dal fondo del Tirreno. Conficcate a grande profondità nei sedili ci sono delle schegge degli F-5 americani, che ci fanno delle schegge militari conficcate nei sedili di un aereo civile. Vede come bastano pochi elementi per far capire come ci sia stata una ragion di Stato che pesantemente ha manipolato la verità. Ha prevalso sulla verità. Verità, sì. Appunto, insisto, che lei in qualche modo ricostruisce e la verità che lei dice, Martinelli, è che c'era un aereo. C'era un caccia libico. Un caccia libico che volava sotto. Il 23 di Gheddafi, nascosto sotto la pancia del 19. Per non farsi intercettare. Per non farsi intercettare. Due F-5 americani lo attaccano. Il libico copre la sua fuga con l'aereo civile, riesce a sfuggire sotto la pancia del 19, l'americano scende a 1400 all'ora dall'alto di taglio e urta l'imboccatura alla destra l'aereo civile e lo disassa, lo gira, l'aereo si apre in due. E come tutto mai questo, l'ala sinistra sì. è intatta e l'ala destra è sbriciolata? Come mai tutte le vittime recuperate hanno il timpano destro perforato? Perché non il sinistro? Perché non tutte e due? Come mai proprio il destro? Certo. Questo nasce appunto da tutte... Quante pagine di documentazione vi siete... Il giudice Rosario Priore ha fatto un'inchiesta monumentale di milioni di pagine che poi ha condensato in una sentenza di 5.000 pagine. 5.000 pagine, famose 5.000 pagine. Quattro anni fa il giudice Priore mi avvicinò e mi diede un dischetto dicendomi legga quello che c'è qua dentro. E c'era la sua sentenza. A pagina 118 il giudice Rosario Priore scrive... Vengono rinvenuti nella stessa zona, nello stesso momento del disastro, pezzi di un caccia militare non appartenente al 19, che fanno supporre una collisione tra questo velivolo e il 19 stesso. Più chiaro di così. E invece dal punto di vista della verità giudiziaria? Ma Priore arriva a due conclusioni sì. dopo 5.000 pagine. O un missile aria-aria che per errore colpisce il 19, o una near collision, cioè una quasi collisione. La quasi collisione è un nonsense aeronautico. Tutti voi avrete volato qualche volta. Quando un aereo entra in un cirrocumulo, le sollecitazioni che riceve sono 100 volte più potenti di quelle di un piccolo caccia che passa vicino a un aereo di 50 metri. Eppure l'aereo esce fuori indenne dalle nuvole. Come mai? Quindi può secondo lei essere sufficiente un passaggio di un caccia di 15 metri per disassare un safe liner di 50 metri lunghezza? Mm. Comunque possiamo dire una cosa, Martinelli, perché chiaramente la verità che in qualche modo lei tratteggia anche abbastanza chiaramente nel film per quanto riguarda la strage di Ustica è importante, sì, ma fino a un certo punto. Io credo che se no altrimenti lei non avrebbe fatto un film che vuole restituire anche tutte quelle che sono degli elementi invece di certezza, i depistaggi, le pressioni ricevute dai magistrati, tutti questi elementi che lei ci diceva all'inizio dell'intervista, che sono il quadro che emerge da questo, che appunto, ripetiamolo, andate nelle sale perché è un esercizio sicuramente utile di un cinema, non voglio dire impegnato, ma insomma un cinema civile sicuramente sì, si va a vedere un film che ci restituisce una storia. Beh sì, una storia che tenete presente per i ragazzi sotto i 30 anni è paleolitico. Se voi chiedete a un ragazzo sotto i 30 cos'è Ustica, malapena vi dice che è un'isola. Certo. Ecco perché è importante fare film come questo, per restituire una memoria a un paese che l'ha persa, un paese senza memoria. L'ieri è già preistoria per i ragazzi, perché viviamo una civiltà dell'inketnunk, del qui e ora, i telefonini, la pizza dove andiamo sabato. L'ieri è già preistoria. Quindi motivo in più per andare al cinema a vedere Ustica, e stasera invece alle 21.30 su Radio 24, il radiodramma, sempre Ustica, una anticipazione o comunque, come diceva Martinelli, lo stesso racconto con un altro linguaggio di questo lavoro. Grazie per essere stato grazie con noi, buona serata. Grazie, buona serata, grazie. E questo è quanto alle 21.30, ripeto l'appuntamento su Radio 24 con il radiodramma Ustica. Ascoltatori e poi la pausa. Sandra da Cagliari, buongiorno. Buonasera a voi. Buonasera. Io volevo intervenire a proposito del sindaco, non mi ha convinto per niente la sua versione. Il sindaco di San Michele di Ganzaria. Sì, esatto. Allora, premesso che le processioni vanno autorizzate e hanno un percorso ben delimitato. anche perché si chiudono le strade al traffico o magari si mette anche il divieto di sosta se c'è molta gente. Quindi cambiare percorso significa creare problemi al traffico, significa creare problemi alle persone che in quel momento devono... No, ma infatti il sindaco per quel motivo lì, perché è stato cambiato il percorso, si è tolto la fascia, se n'è andato indignato. Il punto ma mancante... il sindaco aveva l'autorità di interrompere il percorso in quel momento. Sì. Bastava che il sindaco dicesse ai vigili urbani che stavano scortando la processione: non possono cambiare percorso, imponete che non lo facciano. Diciamo che il sindaco probabilmente... non sapeva che avrebbero cambiato percorso, in quel momento ha capito quello che stava succedendo, ha avuto paura e ha preferito togliersi la penso anch'io così, Sandra. Io gliel'ho detto al sindaco che forse in maniera poco elegante si è nascosto dietro a un dito, perché sicuramente in quel momento lì hai due possibilità: o agisci in maniera forte, netta, come dice lei, blocchi la processione, ti metti di traverso perché sta succedendo qualcosa che non deve succedere, oppure rimani imbambolato e le cose fanno il loro corso. Cioè queste persone che evidentemente devono per forza passare da quella strada perché evidentemente hanno il dovere, il piacere, l'interesse a compiacere il boss che abita in quella casa, e questa però è una cosa che non doveva succedere. Il sindaco forse a quel punto lì o si dimette. Non lo so, neanche a me ha convinto, perché ha raccontato la verità fino a un certo punto. Sandra, volevi aggiungere qualcosa o ci salutiamo? Continuo a dire che appunto non mi ha convinto, che purtroppo sta continuando questa mala usanza di andare a fare gli inchini, perché non è la prima volta. Grazie, buona serata. Aggiungiamo solo che la procura sta indagando come mille altre volte, sarebbe interessante poi vedere che fine hanno fatto tutte quelle altre inchieste che sono state fatte in passato su questo genere di situazioni. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Cos'è l'Europa per te quando pensi a lavoro, studio e mobilità? Oggi le nuove generazioni vivono in una dimensione europea. Tuttavia non basta, c'è tanto da migliorare e qui chiediamo la tua opinione. A te che vedi l'Europa come un'uscita di emergenza dall'Italia. Hai meno di 35 anni? Grazie a Radio 24 e all'Ufficio Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento di Strasburgo. Fino al 14 maggio ascolta Radio 24, scopri il tema della puntata e inviaci la tua proposta su come rendere a misura di giovani questa Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Info su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, l'orario solitamente occupato dalla Zanzara. Questa sera di Pasquetta invece sono io a tenervi compagnia mentre gli amici Cruciano e Parenzo sono tranquillamente in vacanza, beati loro ovviamente. Allora, intanto devo una precisazione a un ascoltatore su WhatsApp al 349-238-6666 che giustamente mi puntualizza sulla questione dell'8 per 1000 che è stato proposto da Massimo D'Alema, in particolare un 8 per 1000 anche per la religione islamica, che al momento non ha questa possibilità. Io ho detto a un ascoltatore: sono soldi di ogni cittadino verso la propria religione, non sono soldi pubblici. Effettivamente l'8 per 1000 inoptato, quello che nessuno barra la casella a chi destinarlo, viene ripartito in proporzione a quelli optati, quindi ci sarebbe sicuramente una parte di 8 per 1000 di soldi dei contribuenti che potrebbero andare, così come vanno alla Chiesa Cattolica, anche alle chiese, alle moschee islamiche. Allora andiamo con chi andiamo? Luigi da Firenze, buonasera. Buonasera, grazie per avermi dato la possibilità. Innanzitutto volevo spezzare una lancia a favore di Cruciani, perché penso che ognuno abbia la libertà di dire ciò che vuole, quindi la forza della Zanzara sta proprio in questo, quindi forza Giuseppe, continua sempre così, perché se fosse una trasmissione normale forse non avrebbe il seguito che ha. Ma la vera domanda la volevo fare sull'Islam, no? Prima sentivo che i cristiani vengono considerati da loro impuri, il compagno di classe oppure chi ha un ristorante eccetera. Allora, noi secondo me cominciamo il giorno a essere troppo buoni e si fa perfetti, no? Tutta questa integrazione di cui siamo impegnati nelle scuole, eccetera, ha portato a togliere i crocifissi dalle aule, se uno parla male di Maometto viene incriminato e viene perseguito, non si può fare niente. Se qualcuno chiede, qualche banca ha rifiutato prestiti per creare le moschee e i dipendenti sono stati minacciati. Ma allora, se noi facciamo così schifo, se siamo così impuri, mandassero a casa loro a osannare Maometto. Se stanno in Italia e devono sostare le nostre regole, e se no rischiamo che vengano penalizzati i nostri ragazzi che vanno a scuola e tutti noi cristiani. Però guardi, c'è una cosa che lei dice che io sottoscrivo, per il resto non sono d'accordissimo con lei, però lei dice se vogliono stare in Italia devono sottostare alle nostre regole. Io su questo sono d'accordo, però le nostre regole sono, per esempio, di tolleranza, no? E di libertà religiosa, per cui siamo liberi di essere cristiani, siamo liberi di essere atei o siamo liberi di essere islamici. Ma lei le sembra tolleranza se una cristiana in Pakistan parla male di Maometto? Ma non parliamo del Pakistan, parliamo dell'Italia. Lei ha detto devono sottostare alle nostre regole e io sono d'accordo con lei, ma le nostre regole sono regole di tolleranza, non sono regole di imposizione di un credo religioso sull'altro, no? Perché altrimenti non saremo più noi stessi. Sì, ho capito, però se continuiamo a dare credito a tutta questa religione rischiamo di essere soverchiati nel giro di qualche ventennio. Mi stupisce come un politico... Ma lei vorrebbe che tornassimo a una religione di Stato, cioè la religione cristiana come religione di Stato imposta a che a scuola bisogna alzarsi per fare le preghiere, tutte queste cose no, qua, no, vorrebbe tornare no, a questo? Ognuno è libero di scegliersi la religione che vuole. Grazie. Io l'unica cosa che non tollero è quando dalle aule sì. si deve levare il crocifisso perché si offende la religione islamica. Va bene. Il crocifisso c'è stato da una vita, voglio dire, levarlo perché si offende, secondo me non si offende nessuno. Grazie Luigi, la sentiamo andare e venire tra l'altro. TG2, titoli. In Belgio rilasciato per mancanza di prove Faisal Chefou, il reporter che si riteneva fosse il terzo uomo all'aeroporto. La polizia riprende la caccia e finisce di nuovo sotto accusa. Delle oltre 70 vittime dell'attentato contro i cristiani in Pakistan, una trentina sono bambini. Dolore e condanna del Papa. Esecrabile attentato, un crimine vile e insensato. Regeni, indagini aperte, dice il ministro dell'interno egiziano. Il procuratore del Cairo chiama il capo della procura di Roma. Finiremo e forniremo tutta la documentazione. L'Italia è uno dei paesi con la più grande diversità genetica, una miniera secondo gli scienziati per gli studi su malattie genetiche e longevità, ne parliamo nel nostro approfondimento. In anteprima al TG2 la fine del complesso restauro della Galleria dei Candelabri nei Musei Vaticani, un fine gioiello pittorico dell'Ottocento, più delicato degli affreschi rinascimentali. E va bene, rientriamo, questi sono i titoli del TG2, andiamo con Antonio che ci chiama da Padova, buonasera. Buonasera Maurizio, ma io trovo sconvolgente il fatto che un sindaco della Repubblica si faccia intervistare da una radio di tale importanza per poi defilarsi in maniera proprio, mi permetta, patetica, quando lui ha un ruolo istituzionale, come benissimo diceva l'ascoltatrice che mi ha preceduto, poteva tranquillamente ordinare alle forze di polizia o comunque ai suoi vigili urbani di rispettare il percorso che era stato stabilito, ma ancor peggio il fatto di avere accettato di andare in trasmissione, sapendo che lui rappresenta quella realtà sociale, è penoso. E allora a questo punto mi chiedo, chi gli ha detto di fare il sindaco? Perché fa il sindaco quando non se la sente di affrontare cose di questo tipo? Poteva fare tranquillamente un altro mestiere. No, ma io devo dire tranquillo. Che Antonio, io gli ho detto alla mia solidarietà, perché fare il sindaco in una realtà come quella non deve essere facile. Però il sindaco ha sbagliato, sono d'accordissimo con lei e gliel'ho fatto presente durante l'intervista, perché o tu fai, non dico finta di nulla, ma non ti esponi togliendoti la fascia, perché veramente non sei convinto che la processione sia stata deviata per andare sotto casa del boss. Se non sei convinto di quello, te ne stai lì tranquillo. Se invece tu arrivi, ti togli la fascia, te ne vai indignato, poi però durante l'intervista dici no, ma io non sono sicuro che fosse per quello, non so se hanno fatto l'inchino, eccetera eccetera, fai ovviamente una figura terribile, questo è il punto. Ora della figura che può aver fatto, ma credo che questo l'abbiano capito tutti gli ascoltatori, tutti gli italiani, quello che lascia molto perplessi è il fatto che i cittadini che rappresentano le istituzioni, che dovrebbero meglio rappresentare le istituzioni, si comportano in questo modo. Questo non è accettabile. Va bene, è assolutamente accettabile. Grazie Antonio, 800 24 0024, ancora 20 minuti per i vostri interventi. vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Oh, 20 minuti per i vostri interventi. Prima però fateci raccontare questa notizia, perché c'è una proposta di legge in Olanda, è un si può fare nel mondo questo qua, che se passasse succederebbe questo, che dal 2025 in Olanda si potrebbero vendere solamente auto elettriche. Una notizia apparsa poco diffusa sui giornali italiani, sicuramente, che si disinteressano al mondo, figuriamoci a una cosa come questa. Io l'ho vista su Twitter tra un tripudio di soddisfazione a parte di ambientalisti al grido di Forza Olanda, il futuro è qua. E ancora una volta dobbiamo sottolineare che il green è di casa all'estero. Siamo in collegamento con una ragazza, una donna italiana che vive ad Amsterdam, Isabella Modonesi, ingegnere. Buonasera. Buonasera. Lei è un ingegnere, lavora presso una multinazionale delle comunicazioni ad Amsterdam, non diciamo il nome perché vogliamo fare pubblicità e non ci interessa. Lei vive in Olanda, e quindi intanto complimenti per essere comunque stare in un paese che guarda al futuro, anche se, Isabella, al telefono mi dicevi che la realtà è un po' più sfumata, perché ci sono aspetti anche in chiaro oscuro. Però andiamo per ordine. Intanto, auto elettriche, ce ne sono così tante in Olanda? Si vedono? Sì, ce ne sono moltissime. E, non è che le noto tantissimo, tranne vabbè, la Tesla, che non è quella più famosa, tra l'altro. Esatto. Ma quello che si vede dappertutto, in strade private, in posti pubblici, sono le collinine di ricarica, ormai sono diffusissime. Questo mi fa pensare che siano anche le macchine. Certo, poi ce ne sono tante. Poi guardando un po' così in giro i giornali, ho visto che tra le auto nuove, più o meno il 6% di quelle che vengono vendute sono o ibride o sono green, sì, elettriche, e anche perché ci sono molte sovvenzioni, ecco, devo dire. Ecco, è una quota al 6% che comincia a essere interessante, ma capite che passare dal 6%, se dovesse essere approvata questa legge, al 100%, cioè ci vorranno 10 anni, però sarebbe un passaggio veramente epocale. Una curiosità, ma queste colonnine si paga o chiunque può attaccarsi gratuitamente? Non credo. Ci vuole, da quello che so, io purtroppo ancora non sono del tu sei old economy? Old economy ancora. Da quello che so si fa una specie di abbonamento, Perché voi, e poi ci si attacca. Sì, Isabella, sì. Voi in famiglia, tu hai un marito, 2 figli, come vi muovete? Ma io più che altro con i mezzi pubblici, qualche volta la macchina, mio marito solo con la macchina, e le mie figlie le cerchiamo, insomma, di spronare la bicicletta il più possibile. Ecco, appunto, io speravo di parlare dell'Olanda, bicicletta, auto elettriche, sì, mezzi, sì, pubblici, mi dici che andate con la macchina. No, vabbè, dipende dalla distanza, chiaramente. Se sono distanze piccole, certo, Usiamo sempre la bici. E senti, poi, vabbè, ecco, questa è una cosa interessante. Ci sono, sì, un sacco di bici elettriche che vengono vendute. Mi sembra che il 50% delle bici vendute in questo momento sono elettriche, e addirittura stanno creando delle piste ciclabili che sono più adatte alla bici elettrica, che chiaramente va a delle velocità diverse. Beh, perché questo sì è una tradizione vera olandese, quella della bicicletta, che adesso naturalmente si sta elettrificando. Ma ci sono problemi di smog anche nelle città olandesi, oppure è un, diciamo, sono problemi solo nostri, che stiamo in pianura padana con poco vento? No, ci sono anche qua, anche se sono un pochino meno severi, e soprattutto qua lo smog rimane a un livello costante, è meno suscettibile alle condizioni climatiche. Da noi, quando non piove, quando c'è troppo caldo, si forma la cappa, eccetera. Qui rimane sempre un po' meno severo, ma sempre abbastanza costante. È una di quelle città in cui si sente di più è Rotterdam, e lì cercano di smistare la circolazione, dei mezzi pesanti. Intorno alla città ci sono limiti di velocità 80 all'ora, cercano di attutire così il problema. Però mi dicevi, quando ti abbiamo contattata per così farci da cronista estemporanea di questa notizia, da corrispondente estemporanea, che ti sei un po' documentata, e in effetti l'Olanda, che magari ai nostri occhi può avere questa immagine di paese idilliaco per tanti aspetti, però dal punto di vista delle energie rinnovabili invece non ha una bella posizione nella classifica in Europa, no? Sì, se con le macchine questa notizia, ed è vero che stanno facendo tanto macchine elettriche eccetera, però ci si chiede da dove arriva, come è prodotta questa energia che poi li ricarica, e questo è un po' il problema e anche la critica maggiore che fanno gli olandesi al governo, è che purtroppo qui ancora la quota di energia verde prodotta è ancora bassa rispetto alla Germania che è al 50%, all'Italia che credo che sia non al 50% ma comunque a un livello alto, qui siamo ancora sul 5%, quindi hanno anche loro da fare qualcosa. Vedi. Sì, chapeau all'Italia. Quindi. No, è vero, l'Italia produce a seconda dei momenti dell'anno, insomma, fino credo al 40%, ora non sono uno specialista del settore, però di energie rinnovabili, quindi meno della Germania, ma evidentemente molto di più dell'Olanda, che pure sta spingendo sull'auto elettrica. Ci sono anche altre notizie, io ho letto per esempio il progetto per rendere alimentare tutto con l'eolico, tutto il sistema ferroviario, piccolo, probabilmente olandese, però al momento Isabella ci dice, guardate che non è che qua in Olanda siamo al top per quanto riguarda le rinnovabili, quindi cari amici d'ascolto italiani, non buttiamoci giù, è vero che ci sono progetti pilota interessantissimi nel mondo, però sul green anche l'Italia i suoi passi sta facendo. Grazie Isabella per essere stata con noi. Prego, bocca al lupo, ciao. Grazie mille, arrivederci. Allora, questa era Amsterdam, questa era l'Olanda, il progetto di auto elettriche da qui al 2025, e invece questi siamo noi, ascoltatori all'800 24 0024, c'è Fabio che ci chiama da Verona. Sì, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, niente, io volevo soltanto dire questo, ho sentito prima qualche intervento sul sindaco di San Michele di Canzariello, siccome io sono di origini catanese, sono nato a Catania, ho vissuto 27 anni a Catania, anche se ormai da 10 anni vivo a Verona. E quindi conosco bene la realtà dei cittadini siciliani, a volte anche dei sindaci, anche perché io che sono della città di Catania, so benissimo che per la festa di Sant'Agata, a volte le candelore, insomma, chi mi ascolta da Catania lo capisce, sa cosa mi riferisco, a volte si inchinano davanti alla casa del boss, sì. A volte ci sono dei compromessi quasi irrinunciabili, direi. E quindi direi, siccome non siamo tutti eroi, io mi immagino questo sindaco, che non so neanche di quale partito sia, non ha importanza. Però, del PD, glielo dico del io. PD. Ok, sì. Va benissimo. Comunque non lo conosco, ma volevo dire, cioè, non, in Sicilia non siamo tutti Falcone e Borsellino, tutti eroi. Ci sono. Vabbè, però questi... non lo dica così, scusi, anzi no, ti do del tu, sei giovane, non dirlo sì, così, no. Perché sì. Sembra come dire, insomma, quasi a giustificare chi, fra l'altro un sindaco che ha anche un ruolo istituzionale, non te l'ha ordinato sì, il dottore. Sì. Per carità, però quando uno vuole migliorare la città già sì. Fa uno sforzo enorme, perché non è facile. Mm. Voglio dire, un esempio di ho capito, tu dici, Roma. Tu dici si cercano degli equilibri, ci sono dei compromessi necessari, purtroppo, ma non magari, capisco qua però, a parte l'incoerenza del sindaco che prima si toglie la fascia e poi dopo rimangia... Proprio questo, cioè l'incoerenza magari è una debolezza di un sindaco che vorrebbe denunciare una situazione e magari sì. Cercare un aiuto ancora più dall'alto. Però Fabio, io non ho capito, regione, quale sarebbe, scusa, non ho capito quale sarebbe il compromesso in qualche modo che questo sindaco... Cioè, il sindaco in sostanza sarebbe, non può essere non può essere capro espiatore di una situazione, lì c'è la mafia, c'è poco da fare, cioè non può essere tutto attribuito al sindaco. No, poveretto. Non è tutto attribuito lui al sindaco, assolutamente no. Assolutamente lui cerca no. Di fare il suo dovere. Io infatti poi, in conclusione dell'intervista cosa ho detto, Fabio? La mafia, ho detto alla mia solidarietà, perché essere sindaco in una realtà del genere non deve essere facile. Sa perché glielo dico? Sì. Sa perché glielo dico? Perché nel mio piccolo io non sono un eroe. Io ho subito in Sicilia diversi problemi legati sicuramente anche alla mafia, come tutti i cittadini siciliani, il furto più volte della macchina, del sì. Motorino, eccetera. Mi sono trovato impotente perché è tutto organizzato giù, tutto gestito dalla mafia. Quindi tu vuoi dire, Fabio, in qualche modo, che il sindaco, che magari su questa cosa della processione potrebbe aver chiuso un occhio, salvo il fatto poi di essersi sbagliato, allora togliersi la fascia, forse per salvarsi la fascia, per salvaguardare delle cose superiori, cioè che cosa potrebbe salvaguardare il sindaco chiudendo un occhio sulla processione che va sotto casa del boss? Altre no, situazioni? No, ma mi pare che c'è un'indagine su questo, sì. su quanto è successo, il sacerdote mi pare che abbia pure abbandonato la processione. E questo sindaco mi pare che si sia tolto la fascia e sia andato a, a fare la processione come un comune cittadino. Probabilmente avrebbe, sarebbe potuto intervenire sul momento come una sorta di supereroe. No, qui la processione non si va a fare l'inchino davanti al sindaco. Però, ripeto, siccome il sindaco non è un supereroe, ma è un cittadino che si prende delle responsabilità, a volte non le porta in fondo, non perché non sia onesto, ma perché non è un eroe, non se la sente, perché poi non è coperto da nessuno. La storia ci insegna, da Placido Rizzotto... Sì, però allora, Fabio, io capisco quello che tu dici, è sensato anche questo. A parte che qui interrompere una processione non era proprio un atto eroico. Abbiamo intervistato Santi Palazzolo, che ha denunciato di avere ricevuto una estorsione, che è cosa più grave che una processione. Quindi non era un atto eroico interrompere questa processione, era un atto di fermezza che necessitava un certo coraggio sicuramente, ma non parlerei per questo di eroismo. Però allora, se uno giunge comunque alla conclusione di non avere la statura per quel ruolo lì, forse davvero a quel punto hanno cambiato il percorso, nonostante il comune avesse detto date di là. Io però a questo punto, sapete cosa faccio? Arrivederci, me ne vado, mi dimetto. Forse era più dignitoso questo, lasciando spazio magari a qualcun altro più coraggioso. Grazie comunque, Fabio, buona serata. Andiamo con Gianni da Verona. Buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire sull'Islam. Sì. Che sentivo vari pareri. Per lavoro sono stato, un eco che sento nel telefonino, sento un eco. Abbassi la radio e ci segua solo sul telefonino. No, non c'ho la radio. Perfetto, la radio no, vada bene, non sentiamo nessun eco noi, quindi per noi può parlare tranquillamente. Allora, Gianni. Io sono stato anni per lavoro nei paesi arabi. Dove? A contatto non con i camerieri, ma con capi di Stato, principi, re, tutte quelle cose lì. Ah, ho mangiato assieme e tutto quanto. In che paese, Gianni, in particolare? Tutti, quasi tutti. Specialmente i paesi del Golfo, Arabia Saudita, tutti. Cioè dal Marocco all'Egitto, e la base è l'invidia. Si scordi che questi ci invidiano a morire. Questo è quello che l'esperienza che ho avuto io. Cosa invidiano in particolare, Gianni? Tutto. La società, l'industria, tutto, perché loro non hanno niente, loro hanno solo soldi e basta. Beh, insomma, prima, non è poco. Dove ci sono i soldi, però? Forse dove girava lei nei paesi del Golfo a questi vertici, quei capi di Stato. Poi in altre posizioni. Vengo dopo agli altri. Sì. Allora, questi qua adesso si sono resi conto che hanno una potenza finanziaria e vorrebbero. Dice, noi siamo potenti, vogliamo entrare, vogliamo comandare, vogliamo, ma per fare tutto quanto occorre un'industria, un'università, occorre tutta un'altra cosa che loro non hanno. No. Cosa hanno invece? Sì. Hanno un popolo con una religione oscurantista, no? Che questa qua la usano per scagliarcela contro, perché non esiste l'integrazione tra la religione cattolica e l'Islam, perché l'Islam non può integrare i cattolici, mentre noi possiamo integrare qualsiasi religione. La religione islamica proibisce io mi devo fare islamico. No, aspetti, dipende, ci sono paesi dove è proibito, tipo l'Arabia Saudita, paesi dove ci sono delle chiese, dove per esempio nel tanto vituperato Iran ci sono sempre state chiese e presenze di missionari e non è mai successo nulla, Sì, sono d'accordo su questo. Sono d'accordo su questo, perché la parte bisogna distinguere, Gianni, bisogna distinguere. Sì, bisogna distinguere paese e paese. Sì, mi scusi. Sì. La parte egemona, io sono cattolico, vado in qualsiasi paese là, sono isolato, e la parte egemone è islamica. Ma quando questo qua viene qua da me, che viene in Italia, come noi abbiamo il problema islamico qua in Italia, non esiste per il Corano che ci sia l'integrazione. Ho capito, va bene Gianni, grazie. Siamo quasi in chiusura, voglio far sentire anche un altro ascoltatore, Gregorio da Bologna, buonasera. Buonasera, siamo in merito all'ultima notizia che avete detto sulle auto elettriche. Sì, in Olanda. In Olanda, sì. A parte i prezzi proibitivi delle penso di sì. Quanto può costare, Gregorio? Lei lo sa, un'auto elettrica oggi? Beh, sui 75-80 mila euro, partendo dai modelli base di anch'io testa. Sapevo queste cifre qua, sì. Si era partito dai 150 mila, così adesso c'è un abbassamento. Sta scendendo, poi ci sono paesi che finanziano l'investimento dell'acquisto dell'auto elettrica. Sì, l'idea è buona. Io, lavorando in un'azienda automobilistica, guardando un po' il mio, dico, ma il problema futuro dello smaltimento delle batterie, non vorrei fosse un altro buco dell'acqua come quello che già è del petrolio. Ho capito, Gregorio. Troveremo trovare una soluzione anche per lo smaltimento, ha sicuramente ragione lei, delle batterie. Che dire, niente, non lo so, non ne so niente di questo, però ha ragione. Grazie. Però non mi smorzi così l'entusiasmo delle auto elettriche in Olanda e speriamo anche in Italia. Ciao a tutti, domani torna naturalmente Cruciani e Parenzo. Ciao a tutti, come si può fare? Invece ci risentiamo sabato alle 7.30 di mattina, sabato e domenica mattina, come sempre, buongiorno del weekend su Radio 24. Ciao a tutti, Ravescio Maurizio, un grazie a Valeria Bernardi, regia, Lorenzo Nespoli e Leonardo Siligato in redazione. Un grande abbraccio a tutti e auguri.